Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Charlie Chaplin partecipò a un concorso per sosia di Charlie Chaplin a Monte Carlo e arrivò terzo. Quella è una storia assurda. Il mio lavoro è proprio quello di verificare gli emendamenti del governo. Il punto vero è se il governo aveva o meno un interesse per i cittadini, un interesse generale a fare quella norma, quindi a sbloccare un investimento di oltre 2 miliardi di euro. A 200 c'è sempre una donna che t'aspetta. Torna la marchetta a 80 euro perché c'è il referendum di vista. È una marchetta per chi i soldi ce li ha. Probabilmente voi avete un sacco di soldi, beati voi, sono contento. E ti dice prendimi ma spiaccio libidinoso, coglione. Dunque per Renzi doveva essere, Giova, figurati, una normale direzione sulle trivelle, no? E ha finito per essere trivellato da Cooper, no! Ora Cooper, no. Posso dire che lei mi sembra anche più bello? Mi è diventato il Gary Cooperlo della minoranza. Conviene. Niente carbone, mai più metano. Pace, prosperità e lunga vita al sultano. Allora, hai sentito Peter le S come suona? Ieri hanno risuonato le S, le C, le T toscane per tutto l'aere televisivo. Madonna Boschi a Porta a Porta. Gli emendamenti del governo, il punto vero è se il governo aveva o meno un interesse per i cittadini, un interesse generale. Non mi fischiano. Sì. Allora, siamo qui, sono le 6:32 minuti. Buongiorno cari amici di 24 Mattino. Come sapete al 349-238-6666 c'è un numero a vostra disposizione per messaggi, soprattutto WhatsApp. Ci abbiamo anche noi WhatsApp. Oggi te l'ho fatto io il verso, caro Peter. Oh Milan, hai anche tu WhatsApp? Sì, sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo con Rino Gaetano, lo straordinario Rino Gaetano, oggi. Oh, ne sono successe di ogni, eh. Vabbè, Mariella Boschi appunto è andata Porta a Porta a raccontare la sua verità. E poi c'è Renzi, avete sentito? Già, guardate, è subito partita la questione. Renzi ha fatto una diretta un po' così impazzita. Era su Facebook, su WhatsApp, su Twitter, saltellava di qua e di là. Ha risposto un po' a tutti e ha promesso forse gli 80 euro di bonus li allarghiamo alle pensioni minime. 80 euro alle pensioni minime. E subito, in un riflesso così pavloviano, ha detto... E non dite che è una marchetta, perché la gente pensa che sia una marchetta, cioè, alcuni pensano che sia, eccolo là, il diversivo, no? Il diversivo per conquistarsi i titoli sugli 80 euro il giorno dopo, adesso che è un po' sotto attacco sulla questione del petrolio, eccetera. E lui dice, beh, forse avete voi i soldi se pensate che sia una marchetta. 80 euro alle pensioni minime, pare che costi tutto questo, se verrà fatto. Intanto lo buttiamo lì sui giornali. 3 miliardini di spesa pubblica. 3 miliardi, vabbè dai. Allora, carissimi, siamo qui 24 mattino, c'è Emanuele Brignoli in redazione e il nostro Peter Vescapè in regia. E c'è anche, E da mezzanotte. Eccoci qua. Paola by night. Paola, è da mezzanotte che vi sto aspettando. Paola, è da mezzanotte. Quanti caffè bevi per fare radio, Paola? Qui a... Ma non servono, non servono. È tale tanta la... La tensione emotiva, ed emotiva. L'adrenalina. Senti qua la sigla. Dai, dai, dai, ancora, ancora. Falla che sentire un po'. Da un po' che non la sentiamo. Pompa, pompa. Paola by night. Paola by night. Senti l'eco. Tutta la notte inesorabilmente. Per ascoltare la voce di Paola fino alle 6:33. Con la nuova stagione, la radio da ascoltare è Paola 24. Paola 24. Paola 24. La passione si sente. E come se si sente. Ecco, come se si sente. Eccola qua la nostra Paola Saluzzi, direttamente da buongiorno, Sky TG24 pomeriggio. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto a posto? Scusate. Siamo qui. C'è un signore che continua a chiamarmi via WhatsApp. Dunque, poi ha quelle foto. Caro signore, che hai una foto con due cani in grembo. La sapete che su WhatsApp c'è la foto, la fotina che ti... Sì. C'è, è un signore con gli occhiali, mezza età, e hai due cagnolini in grembo. Non chiamarmi perché non ti posso rispondere, va bene tutto. Vedo la tua chiamata. Vedo la tua No, rispondi, Glielino, dai. Ma come faccio? E dai, fai uno strappo alla lingua, dai. Pronto? Pronto? Mi sente? Si sente? No, si sente la mia voce in eco. È la mia voce in eco, no, ma non è che abbiamo... una voce lontana. Vabbè, insomma, caro ascoltatore, però non lo so, non è facile. Sta provando a richiamarmi, aspetta. Dai, pronto? Dai, pronto? Alessandro. Sì. Alessandro. Chi è? Buongiorno. Buongiorno. Stiamo in diretta. Come faccio a mandarti messaggi? È 349-238-6666. O devi dire più piano il numero. Allora aspetta, metto giù e lo prendo piano. Allora lo dico più piano. Allora metto giù. Era una telefonata di un ascoltatore, forse si è sentita. Allora il messaggio è questo, caro ascoltatore, però non richiamarmi più perché adesso non si sente benissimo. Sei pronto? Salutiamo già Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Luca, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. L'ascoltatore glielo devo di più piano. Allora 349-238-6666. Oh, più piano di così si sono addormentati in quattro oggi. Assolutamente no. È stato vedi, è una cosa estemporanea. Sì, Alino, esatto. Una cosa perfetta. Sì, esatto. Allora, come detto, c'è anche Luca Dini. Apriamo il Parlamento, dai, subito. Che adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo. Succedono di tutte qui al Parlamento. Caro Luca, buongiorno. Buongiorno. Però la foto è bellissima di questo signore col profilo, perché c'ha due cagnolini in grembo. Bravo. Mi è simpatico. Allora qua, diciamolo francamente subito, come la vedi, caro Luca? Sono tempi duri per il governo oppure no? Lo sperano in tanti. Io personalmente non credo, però sai, poi non è che voglio fare il profeta, ma mi pare che sia più, diciamo, un desiderio che una realtà. Un desiderio. Poi ma... è stato un pasticcione, per carità. Sì. Poi, enorme pasticcione. Bisognerebbe però, insomma, ristabilire un pochino alcune verità, ecco. Ma tra l'altro, pasticcione, ma sapete com'è finita? Cioè, ragazzi, oggi i giornali titolano, sembra una moderna Kramer contro Kramer, ve lo ricordate lo straordinario film, no? Con la Guidi, l'ex ministro Guidi, che ha fatto un comunicato per di fatto scaricare il marito, cioè quello che chiamava marito in una lettera al Corriere della Sera quattro giorni fa, adesso è diventato un uomo su cui sta verificando Federica Guidi la situazione. Un'amica ha detto così: sta verificando la situazione. La verificherei anch'io. No, sì, ho capito, però cioè, ragazzi, qua c'è anche un dramma personale, non lo so. Paola, no, Saluzzi. Sì, è una cosa triste, al di là di tutto. Cioè, è il papà del suo bambino, però io credo che su questo si debba proprio far scendere il velo del silenzio, perché questo non è più questa non è più una questione politica, questa è una questione privata. Lo so, ma familiare e privata. Quando poi diventa tutto talmente pubblico. Tutti noi siamo chiamati a parlarne, tutti noi, perché tutto questo fa parte del pacchetto unico, ma intendo dire, non mi sento di esprimere un giudizio, un parere su una storia del genere, perché questo è il privato di questa persona, anzi di queste persone, che sono tre. Sono una donna con il suo bambino e un papà di questo bambino, quindi questo credo che vada fuori da qualsiasi altra argomentazione sulla quale viceversa c'è un'indagine, si capirà che cosa sia accaduto. Sì, sì, quello sicuramente. Certo, l'indagine va avanti. La questione degli 80 euro, io non lo so, perché io sono sempre. Ma io penso sempre male, ma io penso sempre male di tutti, caro Luca. Io non è che. Io penso sempre male, sono sempre un po' sospettoso. No, tu sei un'anima critica. Pensare male è un'altra cosa. No, ma per carità, non ti appartiene. No, pensare male effettivamente forse esagerato. Però la questione, dai, voglio dire, di dire darò gli 80 euro forse alle pensioni minime, forse. Luca, dai, messo lì nel giorno in cui si vuole un po' distogliere l'attenzione, ma ci sta della comunicazione. Ci sta, detto questo, sono anni che diciamo che le pensioni minime sono indecenti. Al solito, voglio dire, tu oggi parli con un pensionato minimo, ti dice che quegli 80 euro gli fanno comodo. Ah, certo che gli fanno comodo, sì. La cosa migliore... Allora sai, che chi governa faccia delle cose anche per compiacere chi ha governato, mi pare che sia una vecchia legge. Sì, questo è vero, è chiaro che fanno comodo, su questo non c'è dubbio, magari dovrebbero essere strutturali o interventi che però, dici, già almeno quegli 80 euro possono fare bene, su questo sì. Poi non so se li metteranno in moto l'economia o quelle cose lì. Quello non lo so, ma non so neanche se li faranno, cioè, perché la questione che Renzi ha detto è allo studio, dovremo vedere se, che dovremo vedere vuol dire quanto ci costa, no? E oggi sul Corriere ci sono già dei calcoli, 3 miliardi e bisogna trovare i soldi, è la solita storia della coperta, cara Paola, se la tiri da una parte. Io non credo, cioè voglio dire, se l'idea è che questa cosa distragga da quello che sta succedendo, non penso proprio. Non la penso, poi, questo volevo dire... Tutti poi la interpretano come dici tu, quindi casomai da quel punto di vista è un boomerang, rischia di... L'interpretazione è, da questo punto di vista, per qualsiasi tipo di governo, quindi immaginiamolo nel nostro paese o altrove, fissa, cioè chi è d'accordo dice è un'ottima azione, chi è contro aspetta anche i respiri per dire hai respirato e non va bene. Quindi è una sorta di copione già scritto, come che sia, comunque che tu la voglia considerare, insomma, è un copione già scritto. Sì. Critiche partiranno in ogni caso. Ma le critiche, guardate, Renzi le ha anche all'interno della sua stessa famiglia. Ieri è tornato D'Alema a dire, ma insomma, non si attaccano i giudici qui, D'Alema, sentite. E io quando sento le critiche di D'Alema, mi viene in mente sempre quel soggetto a volte straordinario che anche ieri abbiamo riproposto, cioè Vincenzo De Luca, che ieri ha dato un'interpretazione, l'altro ieri per la verità, un'interpretazione, come dire, così, che vogliamo riproporre. Per dirvi che a volte arriviamo a farci del male con le nostre mani, anche qui. Allora, io non voglio operazioni nostalgia, che a volte nascondano più che problemi politici, problemi prostatici, che hanno ovviamente una loro ragione d'essere, ma insomma richiedono altre professionalità. Eccolo lì, forse non lo so, caro direttore, non avresti saputo dirlo meglio, esatto. Direi che De Luca è uno che, insomma, ecco, le operazioni nostalgia le vede un po' così. Problemi prostatici. Ci vuole proprio una creatività. Cioè, è uno che è riuscito a fare ridere, non so se avete sentito, alla direzione del PD, una di quelle cose che vi immaginate con le grisaglie, con gente che dopo 5 minuti ha la spalla pencolante verso la sinistra, si stende sulla poltrona, invece arriva De Luca. Arriva De Luca. C'è stato un momento di... I problemi prostatici. Va bene, va bene. Che vi devo dire? Questo è. Allora, vogliamo parlare anche di altre cose, per esempio la questione Giulio Regeni. Io voglio tornare su questo tema, perché il ministro agli esteri Paolo Gentiloni ieri in Parlamento è stato molto chiaro, sentiamo. Nell'abitazione del capo di questo gruppo di criminali era stata trovata una borsa contenente tra l'altro il passaporto di Giulio Regeni. Questo è apparso come un ulteriore tentativo di accreditare una verità di comodo. Insomma, questa sulla ricostruzione, ma poi Gentiloni soprattutto ha detto, insomma, ha dato una sorta di ultimatum all'Egitto, cioè o un cambio di marcia oppure non va bene. Sentiamo. Sia il governo che la Procura della Repubblica di Roma hanno subito chiarito che non avremmo accettato questa come la conclusione delle indagini. Qui la questione si fa seria, Luca, perché ne parlavamo settimana scorsa, Luca e Paola, cioè cosa dovremmo arrivare a fare? Perché attenzione, dall'Egitto è arrivata subito la replica, come dire, qui così sbagliate, così fate fallire tutto, cioè attenzione, ovviamente sono... Però è passato quanto tempo è passato? Pare che così sia rimasta l'unica strada, perché l'altra strada non... La strada dell'attesa e della fiducia mi pare che sia un po', insomma, esaurita. Complicata e anche degli ultimati. È tempo degli ultimati. Certo, è normale che dicano così, però forse diventa più complicato anche per loro. Dici, sì, in questo... Deve diventare anche più complicato per loro, sì, perché si arriva... C'è da dire che un nome è stato, adesso non vorrei dire... venduto, un nome è stato dato, forse un primo tra virgolette carnefice di Giulio Regeni, l'Egitto non si sa se poi la verità di comodo è stato dato, no? Un generale dei servizi sarebbe lui il responsabile. Però Paola, cosa bisogna fare? Perché... Ma io l'affermazione del Ministero degli Esteri egiziano ieri è arrivata in diretta mentre noi seguivamo proprio Gentiloni alla Camera, il Ministro Gentiloni alla Camera. Non credo che ci si trovi nella condizione di poter dire però attenzione, no, attenzione qui la si deve dire da una parte sola, e intendo dire con questo nei rapporti che si devono tenere naturalmente tra due paesi amici come Italia ed Egitto, bisogna fare attenzione a non menare troppo il cane per l'aia, come si dice, cioè basta con la perdita di tempo, niente restituisce quel ragazzo. Se si legge oggi Carlo Bonini su Repubblica, bisogna avere coraggio per leggere ancora una volta che cosa abbiano fatto le torture a Giulio Regeni. E magari pensare che fosse nostro figlio, che fosse nostro amico, non voglio arrivare alla genitorialità a tutti i costi, che fosse un nostro amico, e chiedere ad un paese che si vuole civile come l'Egitto la verità. Punto. No, senza fate attenzione, state rovinando tutto, occhio a come vi muovete, perché mi sembra un po' troppo, insomma, non la considero, comprendendo e non dovendo agire di pancia e quindi ragionando con la testa, non la considero però una battuta felice. Esatto, poi che o che fosse Parlo nostro figlio o che sia figli o che siano figli i tanti che il Corriere della Sera da giorni scrive sono spariti in Egitto. Ha fatto ieri sul sito del Corriere della Sera c'era un'interessantissima carta di piccole figurine, sì, come no, andavi come no. Su ogni figura era una persona. Persone scomparse. Allora scomparsi, facciamo così. Arrestati morti, scomparsi, arrestati morti, arrestati, no. Restituiti morti. Insomma, ce lo ricordiamo il... No, no, ma questo, ricordate, è quello che tutti succede... Tutti gli inferni possibili, Augusto Pinochet e il generale Videla, ce li ricordiamo? È quello che succede in Egitto, nel nostro Egitto, dove andiamo anche a fare delle belle vacanze, Sul Mar Rosso ogni tanto, pensiamoci. Dobbiamo andare al traffico, rientriamo. Ovunque tu sei, ovunque tu andrai, davanti il traffico troverai. Ciao Milan, direttamente dal dialetto reggiano, o meglio novellarese. A zica nie nie nie nie, nimo nia cava aspet nia, slerminese camezeva, nia melle saieva. Alla prossima. Boeri, boeri, boeri. Svegliarsi la mattina, sentire, aprire la radio e sentire te, mamma mia, fai voglia di andare via dall'Italia. De Luca, sindaco di Roma. È straordinario. Pota, i da disifra quando i sascota e tira più in pil de pota che hento cai che trota. Brescia o Bergamo, lo diciamo tutti e due. Comunque, forza Brescia! Alessandro Milan, come leggi la lista della spesa te non la leggi nessuno, vai! Milano, sai con chi prende te la prendi con i ciclisti, né? Tanto avanti così, vai un po' in bici, dai, che ti fa bene la salute. Pedala, dai. Hop, io quante volte vado in macchina, incontriamo dei ciclisti, dico sempre a mio figlio, dai sporgiti e di hop, quindi non è vero, e lui, Mattia, proprio dice, papà, un ciclista, hop, quindi non è vero che io me la prendo con i ciclisti, anzi, assolutamente, li incito. Ieri c'era questa pagina di tanti sindaci che se la prendono con i ciclisti che violano le regole. Guardate qua, proprio un'agenzia di poco fa, voi dite, l'agenzia di poco fa, secondo fonte al Cairo, il nome che l'Egitto sacrificherà, io ho usato questo verbo, ma c'è nelle agenzie, per la responsabilità della morte di Giulio Regeni potrebbe essere quello del generale Khaled Shalabi, alto ufficiale della sicurezza nazionale. Non lo so, poi adesso Luca, non dobbiamo neanche forse incorrere nell'errore contrario, cioè se trovano un colpevole... Non sarebbe pochissimo. Voglio dire, se dicono un nome... Ad ammettere il coinvolgimento di un altro ufficiale della sicurezza mi sembra già rispetto ai primi rispetto all'incidente stradale, rispetto all'incidente stradale, la droga, l'omosessualità. Cioè, ragazzi, me l'hanno detto veramente, perché poi ricordiamolo, come ha detto, devo dire con una intelligenza spaventosa la mamma di Giulio, cioè ci sono appunto centinaia di ragazzi, di giovani egiziani che fanno la stessa fine, e come se questa cosa anche semplicemente può servire a fare in modo che da ora in avanti certe cose saranno un pochino più difficili da fare. Infatti il coraggio, Luca, il coraggio, direttore, dei genitori di Giulio, il coraggio raddoppiato sta proprio in questo. Cioè, io non chiedo solo per mio figlio, ma mi metto a questo punto, mai l'avrei voluto fare, ma lo faccio perché lo devo fare, al servizio, metto il servizio tra virgolette, di tutti gli altri. Allora, perché non si può sparire così nel 2016, chiaro, non siamo nel medioevo della storia, anche se io non posso, posso dire una cosa, scusa, volevo, secondo me è arrivato un Twitter, vorrei rispondere, c'è un signore che mi dice, c'è gente che muore di cancro per via, diciamo, e tu lo chiami pasticcione, ok? Io chiaramente cosa c'entra? No, va bene, però vorrei dire una cosa. Pasticcione sarà la questione giudiziaria. La politica energetica italiana e i cosiddetti favori ai petrolieri li facciamo da 70-80 anni. Oltre a dire quello che non ci piace, sarebbe stato bello in questi anni che avessimo cominciato a dire qual è l'energia che vogliamo. Sì, ma guarda, ieri ne parlavamo con Oscar Giannino, ieri ci ha telefonato l'ascoltatore a dire, guardate che in Norvegia, dove estraggono tantissimo petrolio, e ce lo raccontava quel poliziotto, tenente Di Bello, che è stato estromesso dalle indagini in Basilicata perché ha trovato delle cose scomode, lui dice. E lui ha detto, guardate che in Norvegia estraggono tantissimo petrolio, ma lo fanno con straordinari criteri di rispetto dell'ambiente, di rispetto, quindi si può fare, cioè le cose se vengono fatte, non è che sono contro il petrolio, sono contro l'estrazione del petrolio se è fatta male, questo andrà verificato. Però io devo qua fermarmi, nel senso che allora, c'ho Vanity Fair con un signorotto, sono vent'anni, sono vent'anni, ma tu quando ti dico il nome ti sciogli, Marcello Mastroianni. Oddio che meraviglia, eccola lì. Oddio che meraviglia, sono vent'anni in tutti i sensi, d'uomo e di attore e di persona, bravo Dio. Avete intervistato Barbara, che è la figlia? Barbara. Sì, la figlia, diciamo che di solito non parla, la prima figlia che parla del padre di Marcello. Io però nel lasciarvi vi ricordo che alle 15 c'è Paola Saluzzi. No, io non ci sono per due giorni, sono in missione, un epic fail così. Allora Paola, cambiamo argomento, ma comunque c'è sempre, ma tu lo sai che il nostro pomeriggio, però certo. Tu stai bene? Tutto a posto? Hai un po' di magari di raffreddore? Un po' di piccola influenza. Allora sappi, scrive una ricerca, che le donne usano 27% più degli uomini gli antibiotici perché hanno questa voglia, questo dovere di sentono il dovere di guarire subito, di rimettersi in forma. E quindi non lo so, prendi un antibiotico, che ti devo dire? No, scherzo. Comunque questa ricerca che vedremo tra poco anche in rassegna stampa. Io ringrazio Paola Saluzzi. Allora, non è su Sky oggi e domani, ma c'è comunque il pomeriggio di Sky. E così come c'è Vanity Fair in edicola, eh. Ciao, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Pantera Millesimato, l'IRP di Infracom Italia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici, sono le 7:20 minuti, eccoci qua, ben ritrovati, debosciati miei, come state? Che arrivate? Milan, brutto debosciato! Bene, chi di debosciato ferisce? E allora, dai, siamo pronti a leggere i giornali, sono tante notizie su cui vorrei concentrarmi, forza, lanciamoci! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È mercoledì 6 aprile, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, mercati, rifugio nei bond, seduta nera per le banche, questo è il titolo di prima pagina. Poi molti quotidiani aprono sulle novità per il caso dell'uccisione di Giulio Regeni e tra poco approfondirò. Avviso all'Egitto su Regeni, questo è il titolo del Corriere della Sera. Per Repubblica, Regeni, ultimatum dell'Italia all'Egitto, il Cairo dice rovinate tutto. Per La Stampa, Regeni, l'Egitto offre la prima testa. Mentre Il Messaggero, Regeni, l'Italia avverte l'Egitto. Poi ci spostiamo sulla questione politica, Libero accusa per nascondere l'inchiesta, Renzi regala altri 80 euro, propone l'aumento per le pensioni minime. Il Giornale invece sulla questione dei Panama Papers, anche l'amico di papà Renzi nella lista di Panama. Si tratta di D'Agostino, l'uomo per cui il padre del premier fa il consulente, questa è l'accusa del Giornale. Mentre la questione di Potenza torna su giornali come il Fatto Quotidiano, altra marchetta del governo a Mister Guidi, la trama dei favori. Da una parte il decreto del ministero, dall'altra il piano per stoccare milioni di barili in Sicilia. Sulla questione invece di Potenza e in particolare sulla concentrazione, l'aumento dei tumori registrati in Basilicata, titola Avvenire, il conto dei tumori nell'area dei Pozzi Lucani, più 23% di mortalità. E vedremo anche questo. Ma partiamo appunto dal caso Regeni, perché c'è stata una svolta non solo in Parlamento, dove il ministro degli esteri Paolo Gentiloni ha accusato duramente, dicendo all'Egitto ora ci vuole un cambio di marcia. Dal Cairo subito è arrivata prima una risposta molto secca nei linguaggi diplomatici, cioè così rovinate tutto. Poi però la novità più importante raccontata da Repubblica e La Stampa è che c'è un nome, una prima dunque ammissione da parte del Cairo di un uomo che sarebbe dietro le torture e l'uccisione di Giulio Regeni. Si tratta del generale Khaled Shalabi, alto ufficiale della sicurezza nazionale incaricato del caso Regeni, già condannato nel 2003 da un tribunale di Alessandria per avere torturato a morte un uomo e falsificato i rapporti della polizia, dopodiché era stato reintegrato dopo la sospensione della sentenza. È Francesca Paci che dedica tutta pagina 3 sulla Stampa col titolo «C'è un colpevole per la morte di Giulio. Al-Sisi sacrifica l'investigatore dei servizi». Si usa questo verbo, sacrifica. Il presidente egiziano avrebbe sacrificato lui, come dire «diamo lui in pasto», brutalmente lo dico, come responsabile di tutto ciò. Anche Carlo Bonini, a pagina 3 di Repubblica, racconta lo stesso nome e la stessa situazione. Qui però ci sono dei dettagli in più su quello che sarebbe successo a Giulio Regeni. Ecco chi ha ucciso Giulio, l'accusa anonima ai vertici che svela tre dettagli segreti. racconta Carlo Bonini che da giorni un anonimo che si dice, si professa essere vicino ai servizi segreti egiziani sta scrivendo delle mail a Repubblica, un po' in inglese, un po' in arabo, qualche parola in italiano. Ovviamente sono fonti anonime, è un anonimo e quindi va preso per quello che è, ma scrive Repubblica, scrive alcuni dettagli delle torture di Giulio Regeni che non sono stati resi pubblici. E questo dunque lo accredita come una fonte abbastanza attendibile. E scrive Repubblica, questo anonimo ci ha scritto questo: l'ordine di sequestrare Giulio Regeni è stato impartito dal generale Khaled Shalabi, capo della polizia criminale del Dipartimento Investigativo di Giza. Fu Shalabi, prima del sequestro, a mettere sotto controllo la casa e i movimenti di Regeni, a chiedere di perquisire il suo appartamento, e fu Shalabi il 25 gennaio, subito dopo il sequestro, a trattenere Regeni nella sede del distretto per 24 ore. Nella caserma di Giza, Giulio viene privato del cellulare, dei documenti, di fronte al rifiuto di rispondere a alcune domande, in assenza di un traduttore e un rappresentante dell'ambasciata italiana, viene pestato una prima volta. Si vogliono conoscere la rete dei suoi contatti. Per ordine del Ministero dell'Interno, Magdi Abdel Gaffar viene poi trasferito in una sede della Sicurezza Nazionale a Nasr City. Lì ci sono 48 ore di torture progressive. Picchiato al volto, bastonato sotto la pianta dei piedi, appeso a una porta, sottoposto a scariche elettriche in parti delicate, privato di acqua, cibo, sonno, lasciato nudo in piedi in una stanza dal pavimento coperto d'acqua che viene elettrificata ogni 30 minuti per alcuni secondi. E poi questo particolare, scrive Repubblica, bastonature sotto i piedi, che era un dettaglio fin qui ignoto, è scritto invece in questa mail. Fa anche male leggere, proprio fisicamente leggere queste cose, ma forse c'è questa svolta. Forse c'è questa svolta. Ora bisogna capire se è una svolta attendibile oppure no. Certo, non bisogna neanche incorrere nell'errore contrario di dire non crediamo a nulla di quello che proviene dall'Egitto, perché altrimenti così non ne usciremo più. Però i dettagli sono quelli di un nome che è stato fornito come presunto responsabile della morte di Giulio Regeni. Lasciamo questa vicenda con cui molti giornali aprono, vediamo le questioni italiane. Io sono basito, veramente basito. Ancora emerge la questione della scuola del liceo Virgilio a Roma. Ora dobbiamo fare una premessa: noi abbiamo invitato la preside Irene Baldriga, ve lo ricordate forse qualche giorno fa, preside che ha chiamato la polizia, preside che ha difeso il fatto che la polizia abbia arrestato uno spacciatore maggiorenne, peraltro, all'interno della scuola. Da allora ci hanno scritto i genitori del Virgilio, i rappresentanti, dicendo «Non ci avete dato spazio!» E nella stessa trasmissione c'era un genitore che è intervenuto. «Avete fatto tutto senza contraddittorio!» Ed era ospite anche Riccardo Maggi dei Radicali, che criticava la scelta della preside. Quindi manco hanno ascoltato la trasmissione, evidentemente, oppure l'hanno ascoltata con mezzo orecchio. Comunque, la questione dei genitori del Virgilio riemerge perché oggi il Corriere intervista nuovamente Irene Baldriga, dirigente scolastica del Virgilio a Roma, una pagina del Corriere che verrà subissato di critiche perché avete ascoltato solo una parte, cioè questo feticcio della par condicio ovunque ormai, un male moderno della comunicazione. Comunque la preside antidroga contestata ancora, e ora lei dice «I genitori aizzavano i figli, mi sono spaventata, sì ho avuto paura, c'è stata una manifestazione di ragazzi fuori dalla mia stanza, prendevano a calci la porta e urlavano cori e insulti, violenza pura». Parla Irene Baldriga, dirigente scolastica del Liceo Virgilio a Roma. Colei che dopo un'occupazione di 15 giorni fece arrivare la polizia, forse da lì che le hanno giurato un po' vendetta alcuni genitori, che ora lei dice c'erano genitori che aizzavano i figli. Mi sono chiesto anch'io, quando c'è stato questo arresto di spacciatore, mi sono chiesto anch'io, tutti dovevano stare dalla mia parte, solo che c'è chi trasmette l'idea, dice questa dirigente scolastica, c'è chi trasmette l'idea che consumare stupefacenti non sia dannoso E questa è una vera emergenza sociale, la droga tra i ragazzi in aumento, altro che i fatterelli del Virgilio. Ma dei genitori difendono questi comportamenti violenti e dimenticano che la scuola è un'istituzione pubblica, è la prima forma di Stato con cui si entra in contatto e abbiamo una responsabilità etica, dobbiamo insegnare legalità e rispetto delle regole. Poi dice: al Virgilio c'è comunque una maggioranza silenziosa di genitori. Ci sono poi gli indignati per quello che succede da mesi. E infine i contestatori. Alcuni erano lì con i figli. Quella rivolta, come l'occupazione di dicembre, è stata guidata dall'esterno. Genitori che strumentalizzano i figli, magari per fare politica e farsi vedere. È una minoranza molto agguerrita che sembra voler dare un'immagine distruttiva della scuola. Va bene, attendiamo nuove mail di protesta. Grazie, arrivate, archiviate. Oh, care donne, questa è una notizia che fa per voi, cari maschietti, anche per voi. Insomma, per tutti. Anna Meldolesi racconta una ricerca che mi ha molto colpito. È una ricerca, tra l'altro, di una infettivologa italiana, Evelina Tacconelli, che insegna a Tubinga, in Germania. Ebbene, in questa ricerca, dati che coprono 44 milioni di pazienti, si scopre che le donne prendono gli antibiotici più degli uomini, in media il 27% in più. Non è che si ammalino di più, eh? Non è che si ammalino di più. Ma sentono il desiderio e la pressione, non il desiderio, più che il desiderio è la pressione di dover guarire subito. Donne. Ma perché due giorni di sotto la copertina nel lettuccio non fanno comodo? A voi dite la famiglia, fatela portare avanti agli uomini, questi rompiscatole. E infatti Anna Meldolesi dice: lui non riesce a alzarsi dal letto, anche se il termometro segna due lineette. Lei continua stoicamente a fare tutto, nonostante il febbrone. Io pensavo fosse un'immagine un po' medievale, invece evidentemente ancora moderna. Lui non vuole vedere il dottore, lei ci va spesso, anche se poi non si cura nel migliore dei modi. Ma il risultato? Le donne prendono più degli uomini gli antibiotici, in media il 27% in più di antibiotici delle donne. Se non c'è parità negli antibiotici, pure lì. Mannaggia, pure negli antibiotici. Vabbè, dai, questo invece è l'articolo che mi fa pensare della giornata. Rispondo così a un ascoltatore che mi scrive: che bello vedere nel piazzale aziendale gran parte dei colleghi scendere dalla macchina solo dopo aver ascoltato l'articolo da Mani sul volante. Eccolo qua, vi vedo fermi nelle vostre macchine congelati. L'articolo che mi fa pensare della giornata va a Nicola Pinna. Sulla stampa: è finita l'epoca delle bustarelle, ora sulle tangenti si pagano le tasse. Sì, perché non ci sono più le mazzette, quelle romantiche di una volta, in nero, nelle mutande, magari anche sporche, nei bagni, nei cunicoli. No, adesso, come si racconta da un'indagine in Sardegna, il pizzo veniva messo come finte consulenze, quindi tutto a norma, finte consulenze, si pagano pure le tasse sulle mazzette. Dai, andate a lavorare adesso. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Alessandro Milan, il personaggetto dell'informazione. Keep calm e al lavoro senza distrazioni. Beh, vabbè, ma non era male questa imitazione, la prima, eh? Keep calm era lui, era Vincenzo De Luca, un uomo, un mito. E allora, eccoci qua a parlare dell'inchiesta, sulla vicenda Potenza, ovviamente. Ieri Maria Elena Boschi, ministro delle riforme, per i rapporti col Parlamento, è andata porta a porta. E Monica Guerzoni racconta, pagina 5, anche il congedo di Bruno Vespa. Ministro, lei è più tosta di Renzi? E Maria Elena che risponde: no, lui è il più tosto di tutti. con questa battuta la numero due del governo, così viene etichettata, numero due del governo, perché numero due? Non lo so. Comunque ha tirato giù il sipario su un'altra giornata di sovraesposizione per lei e il premier, anche Massimo D'Alema infatti attaccato, lascia un segno nel governo questa vicenda. Ma insomma, Marianela Boschi cosa dice a Bruno Vespa? Mio padre aspetta la giustizia, mi auguro che sia la più rapida e la più giusta possibile. Ha parlato dunque anche della vicenda del padre e quindi di Banca Etruria. E poi sulla vicenda invece Tempa Rossa, ho lavorato bene, ho agito con onestà, ho fatto il mio dovere. Se i giudici hanno altro da chiedermi, sono ancora a disposizione. Dice anche mai conosciuto il compagno dell'ex ministro Guidi, Gianluca Gemelli. Oh, tra l'altro qui sulla vicenda Guidi bisogna leggere qualche articolo, perché invece le novità su Federica Guidi, che domani credo verrà sentita dai magistrati, così raccontano i giornali, o meglio 48 ore, sì, domani. Domani, perché si dice sul Corriere, a 48 ore dall'interrogatorio dei magistrati, fa un comunicato, e cioè ieri Federica Guidi, nella quale insomma in questo comunicato cambia moltissimo delle carte in tavola sul rapporto con quello che, come fa notare il Corriere, in una lettera lei stessa aveva definito mio marito di fatto, e cioè Gianluca Gemelli, indagato. Perché in questo comunicato di ieri Federica Guidi, e questo è il titolo un po' di tutti i giornali, scarica in qualche modo il compagno. Eccolo qua, Repubblica, la Guidi cambia strategia, scarica il compagno, niente interessi comuni. E anche sul Corriere si fa notare, non è più il marito. Quello che era stato definito marito da lei stessa in una lettera, ora invece un'amica dice sta verificando il ruolo di Gianluca, padre di suo figlio con il quale non ha mai convissuto. Da tempo si vedono solo ogni 7-15 giorni e con lui non ha interessi comuni, non ha conti cointestati e ha sempre provveduto lei e la sua famiglia alle necessità del figlio. Beh, un comunicato molto duro, di presa di distanza. Tutti i giornali titolano su questo, su questa presa di distanza dal compagno da parte dell'ex ministro Guidi. E per la verità ci sono altre cose che un po' imbarazzano quando si entra nel tritacarne delle intercettazioni, che finiscono poi a spizziche e bocconi sui giornali, ci finisce di tutto. Beh, certo, questa forse è la telefonata che scrive Repubblica nuova e che imbarazzerà non poco. Quando l'ex ministro Guidi, intercettata, ieri raccontava a Repubblica, piangeva proprio con il compagno dicendo il timore che tu mi stia usando. Ma sentite invece cosa dice l'allora ministro del sottosegretario De Vincenti, che peraltro è una delle persone in predicato di diventare ministro al suo posto. Quello è un pezzo di M. Potete immaginare voi che cosa. Parlando appunto al telefono, la Guidi dice, Leo Amato scrive su Repubblica, si lamenta, qui stiamo facendo un favore a De Vincenti, io non mando a puttane, come ho già rischiato di fare un pezzo della mia roba per fare un favore a tutta quella combriccola lì, De Vincenti è un pezzo di M e lo tratto da pezzo di M, così del sottosegretario. Insomma, questa è la vicenda anche giudiziaria con le intercettazioni. Mentre c'è un nuovo filone su cui titolano oggi tutti i giornali, è un filone molto serio che riguarda la salute pubblica dei cittadini della Basilicata. Vicino ai pozzi si muore di più. Questo è il titolo di Avvenire. A Corleto Perticara, cioè 4 km da Tempa Rossa, c'è un più 23% tra il 2011 e il 2014 per quel che riguarda alcune tipologie di tumori. E anche il Corriere della Sera, l'indagine sui tumori in Basilicata. Pagina 8, tumori allo stomaco, a rene, linfomi di Hodgkin, leucemie, sono migliaia di cartelle cliniche sequestrate dal nucleo operativo ecologico dei carabinieri negli ospedali lucani per accertare se quei fanghi tossici, pericolosi, smaltiti come semplici rifiuti e finiti nelle falde acquifere della Basilicata siano all'origine di patologie gravissime e di morti. Ovviamente le aziende coinvolte, in primo piano l'ENI, smentisce, non siamo avvelenatori, ha dichiarato ancora ieri l'amministratore delegato Descalzi, che chiederà il dissequestro dell'impianto di Viggiano e su ambiente, acque siamo tranquilli. Ma certo, questi dati sui quali i carabinieri voglio vederci meglio sono dati che almeno nella certificazione più 23% inquietano non poco. In tutto questo che cosa fa Matteo Renzi? Per carità, per alcuni giornali la questione è collegata, per altri giornali non lo è, per lui stesso non lo è, e lui lo ha detto anche con un riflesso un po' che suona come scusatio non petita. Comunque dice: voi pensate che vi stia rifilando una marchetta quando propongo di dare gli 80 euro alle pensioni minime? Ma non è una marchetta. Il rischio dell'effetto di comunicazione che oggi sui giornali molti dicono: ecco la marchetta del governo. Renzi tenta il depistaggio, titola per esempio Libero, 80 euro ai pensionati. Per coprire l'inchiesta e preparare le amministrative, il premier promette di alzare gli assegni sotto i 500 euro. In realtà c'è da dire che questi 80 euro sono sicuro farebbero molto comodo a coloro che hanno le pensioni minime. Lo stesso Renzi dice: chi dice che è una marchetta evidentemente non ha bisogno di questi soldi, mentre i pensionati e la pensione minima forse ne hanno bisogno un po' di più. Comunque Renzi annuncia: forse daremo gli 80 euro anche alle pensioni minime. E sul Corriere della Sera ci sono i calcoli: potrebbe costare tutto ciò tra i 2,3 e i 3,5 miliardi l'anno per le casse dello Stato. Ma i veri calcoli ufficiali, quelli indiscutibili, quelli imperscrutabili, quelli intoccabili, li dà il Sole 24 Ore. Vero Mauro Meazza? È verissimo. Facciamo la svelta perché sono a Panama e sì, perché dovevo sistemare delle cosucce, e quindi non vorrei farti pagare troppo con la bolletta che poi mi sgridano. Sei insieme a Garibaldi? Sai chi è Garibaldi? No, mi sfugge. Scusami. Garibaldi il famoso più noto Giuseppe. No. Garibaldi Toir, fratello del più celebre Eric. Sì? Conosci? Sì. Pare essere uno dei clienti a Panama, Garibaldi. Adesso vedo Garibaldi se lo trovo. Vedo se lo trovo, così lo saluto caramente. Ma volevo dirti comunque oggi su tutti i giornali, ma soprattutto sul Sole 24 Ore, ancora gli esiti di Panama. E tra l'altro ti segnalo anche una serie di domande e risposte per fare un po' di chiarezza sulla possibilità lecita di portare appunto soldi oltre frontiera, ma naturalmente a patto di ricordarsi poi di dirlo, come dire, all'Agenzia delle Entrate, che altrimenti così si dispiace di queste amnesie. Ma trovi tutto oggi in due pagine sul Sole 24 Ore. Si dispiace, è bellissimo. L'Agenzia delle Entrate si dispiace delle amnesie. Si dispiace un po'. Devo dire, si dispiacciono anche i contribuenti, che invece se ne ricordano, ecco, di segnalare i loro redditi in Italia o altrove. Va bene, ma a parte questo, volevo dirti: abbiamo presentato, il governo ha stilato un piano per le professioni, quindi stiamo parlando di un così mal contati 5 milioni di concittadini, sì, per adeguare diciamo tutti i piani formativi alle indicazioni europee. Ma perché hai detto abbiamo presentato il governo? Sei del abbiamo governo? No. Sei un sottosegretario? Non ancora, almeno che io sappia non sono stato nominato fino a ieri sera, almeno che stamattina venga chiamato, ma non credo che sia così. E invece leggi, norme e tributi, come sempre religiosamente, troverai appunto questa indicazione di Federica Micali che ti parla delle modifiche che potrebbero anche intervenire. Il piano è molto molto corposo, quindi ne diamo un riassunto. Poi ti voglio segnalare i contratti per gli statali, sempre per grandi platee, per la serie grandi platee, quindi 2,5 milioni anche lì di persone. C'è questa intesa per passare da 11 comparti a 4, il che avrà degli effetti molto importanti, e un'attuazione della riforma cosiddetta Madia. Trovi tutto naturalmente sul Sole 24 Ore come d'abitudine. Ricordati che oggi con il Sole 24 Ore trovi anche in allegato un focus, uno speciale di 16 pagine dedicato al terzo settore, alle onlus, alle attività che coinvolgono sempre moltissimi cittadini, soprattutto le regole fiscali e anche quello che potrebbe cambiare con un disegno di legge che è arrivato già al primo voto. Sai che ci sarà il Salone del Risparmio da oggi? Lo devi sapere per forza, perché Radio 24 sarà presente anche al Salone del Risparmio, quindi non cascarmi dal tero, perché devi essere per forza informato. E poi una notiziola. c'era la possibilità di negare per motivi di privacy l'inserimento di dati nella precompilata. Sì. Dai, ecco, però si sono opposti soltanto in 560, il che devo dire, contando mi pare la quarantina di milioni di contribuenti, sono pochini. Mi paiono un po' pochini, non riesco adesso a fare la percentuale, ma deve essere una cosa da prefisso internazionale, così appunto come Panama, da cui sono partiti. Ora ti lascio perché qui tra l'altro è ancora notte e quindi mi vado, torno senza. Saluta a Garibaldi, Il saluto Garibaldi Toir, sì esatto, va bene, fratello di Eric. Sull'elenco del telefono lo cerco subito e poi ti faccio chiamare magari in diretta. Ok, traffico. Mola mia Alessandro, mola mia che ti sei il numero vu. Beh, grazie caro ascoltatore, cose che veramente ti danno sprint a quest'ora del mattino. Allora, diceva Mauro Meazza appunto i Panama Papers, su cui ci concentreremo anche dopo con Oscar Giannino. Ricordiamo che questo scandalo è nato da 11,5 milioni di documenti trafugati da uno studio legale con base a Panama, che svelerebbero un elenco di moltissimi anche leader politici mondiali, ma non solo, uomini del cinema, dello sport, persone influenti che avrebbero conti a Panama. E avere un conto a Panama non è di per sé un delitto, ma in alcuni casi è un modo per occultare i soldi al fisco nazionale. Comunque cadono le prime teste, il premier islandese si è dimesso, è tra l'altro un ex giornalista, è diventato premier, è stato pizzicato con i conti a Panama e lui all'inizio ha detto ma no, è un errore eccetera, giro di 48 ore ha dovuto rassegnare le dimissioni. Ora l'inchiesta tocca anche la FIFA, il nuovo capo del calcio mondiale infantino, colui che ha sostituito Josep Blatter, finito poi negli scandali, sapete, anche lui pare pizzicato coi soldi a Panama. Ma poi appunto nel mondo del calcio anche Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, pare, sì, almeno oggi i giornali raccontano e mettono la sua foto, abbia conti lì. Così come appunto Garibaldi Toir, Garibaldi è il fratello meno famoso del più celebre Eric Toir, il proprietario dell'Inter. Tremano i big dello sport, nelle carte Infantino, nuovo sovrano della FIFA, titola per esempio Repubblica pagina 9. Ma appunto c'è la foto di Clarence Seedorf a pagina 11 del Corriere della Sera. Tra i nomi spunta il calciatore Seedorf, c'è Nico Rosberg della Formula 1. Insomma, tutto ciò porta la Procura di Torino a indagare. E voi direte, io me lo sono chiesto, ma perché la Procura di Torino in particolare? Perché, come racconta Roberto Petrini a pagina 8 di Repubblica, già la Procura di Torino indagava su un falso invalido, un medico di origine iraniana che si sarebbe rivolto a questo studio legale Mossack Fonseca, da cui sono stati trafugati i documenti, per nascondere 100.000 euro ottenuti dall'INPS italiano e da varie assicurazioni. E quindi, visto che già a Torino si indaga su questo studio legale e su Panama, ecco che tutto va riversato lì a Torino per comodità. E nelle prossime ore le fiamme gialle, dunque la Guardia di Finanza, cominceranno la faticosa operazione che porterà a recuperare intanto questa lista. Attenzione, come scrive Repubblica, avere questa lista non vuol dire granché, sono solo elementi indiziari. Come ha detto per esempio Jarno Trulli, pilota di Formula 1, ieri al Corriere della Sera, sì, ho i soldi a Panama, è tutto regolare, non c'è alcun problema. Il giornale titola per arrivare a Renzi... Nella lista dei conti offshore c'è anche il Giglio Magico, due società legate a Luigi D'Agostino, amico del papà di Matteo Renzi. Infatti Renzi Senior è consulente per l'affare degli outlet di Luigi D'Agostino, che ha i soldi a Panama. Quindi il giornale, diciamo, fa 1+1 e dice Panama Papers coinvolgono anche Renzi. Vabbè, devo andare velocemente in conclusione. Sì, vi annuncio solo, come scrivono i giornali, anche se non c'è la conferma ufficiale, che il Papa incontrerà i rifugiati di Lesbo in Grecia, dove la visita è prevista o il 14 o il 15 aprile. E questo è un modo anche un po' per così spronare l'Europa a occuparsi in maniera concreta della questione dei migranti. Vi segnalo anche un'intervista a Beppe Grillo sulla Stampa e Il Secolo XIX, è la stessa intervista di Alberto Mattioli. Beppe Grillo parla in realtà del suo spettacolo teatrale che sta portando in giro per l'Italia. Dice: le querele di Renzi sono campate in aria senza base giuridica. E comunque dice: a teatro per chi non mi ama e non mi vota e per capire come sono diventato leader. La politica non l'ho mai cercata, dice Beppe Grillo, è capitata. E poi dice questa frase che ripete da un paio di giorni: se non vinciamo a Roma mi ammazzo dandomi fuoco a Campo dei Fiori. Questo Beppe Grillo. Chiudiamo con la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. È un articoletto oggi, un articoletto con tanto di foto. Ah, i fiori d'arancio, le nozze in vista, la deputata Ravetto di Forza Italia e il deputato Ginefra del Partito Democratico, che avevano litigato con tanto di litigio, ora si sono riappacificati. E Laura Ravetto ha mostrato, con tanto di foto pubblicata sul giornale, l'anello nuziale, l'anello di fidanzamento, tutto ricomposto, e annuncia: ci sposiamo a giugno, il 4 giugno ci sposerà Walter Veltroni. Ma chi se ne frega!